editoriale non è uscire la porta, a volte la arda di sottoppia o riottrione. E questo cosa dipende di tra quello che sei e quello che impalti essere meno di sottoppia.